perché il padrone non la poteva la vita, dice, un cane non riusciva a tenerlo, perché tutte le volte che usciva si divincolava, andava a aggredire gli altri cani. È proprio una cosa esagerata con nessuno, cioè con le persone. L'ha portato di lì, l'ha portato, ha detto stia attento, io sto avvicinando il veterinario, si è inginocchiato in terra, ha fatto il cane, come il cane si è avvicinato, l'ha usato, hanno cominciato a giugare, gli ha messo la mano in bocca, di tutto gliene faceva. Il padrone era, dice, non è possibile, il cane dice era una belva, l'ha preso in un modo particolare questo veterinario e il cane non gli ha fatto niente. Basta, ma no, beh, se andavo lontano io un giorno e sono venuti, sono questi due cani. E ho detto tipo, non so se fosse tipo zingaro albanese, incrociato così. Ma faceva questo fischio con un simbolo. Tu vedi i cani come si bloccavano. Che cos'era? Non lo so, faceva questo fischio con la bocca, con un simbolo, ma per me era una specie di, creava qualche ultrasuone, cazzo adesso, era una cosa a vedere. I cani lì si avvicinavano. E infatti c'è i cani quando si bisticciano, questi pitbull, o li butti con le sirene, quelle fortissime che li toccano i timpani, oppure li butti una coperta sopra, è l'unico modo per farli staccare. Questo, vabbè, o se non si avvicinava perché si aggava niente, non mai, o non fare un fruscio, ma proprio non si avvicinavano. Ok, ma tu hai conosciuto quelle che avevo io, quello male e male, quel fatto del testo? Grazie. ma ci sono i cani che hanno proprio l'indole il fatto di essere aggressivi. Guarda, allora, l'unico cane che per legge di natura diventa scemo e bisogna abbatterlo è l'Oberman, perché è un cane talmente intelligente che il cervello gli si restringe dentro la scatola cranica. È arrivato a quel punto lì, lo devi abbattere perché poi non conosce più né padrone e né nessuno. Ed è l'unico cane che esista che ha quel difetto lì. Se no tutti quanti gli altri cani che sono normali fanno quello che gli dicono il padrone, perché te l'ho detto, io ho degli amici che hanno il dog argentino, eppure tu li vedi, giocano con i bambini, ti fanno. Allora se tutti quanti fossero così non ci sarebbero più bambini, perché i cani li aggrediscono, ma non è vero niente. Il cane fa purtroppo quello che gli si viene insegnato. Se gli viene insegnato di aggredire, lui aggredisce chiunque, o che lo faccia per gioco, o che lo faccia per quello, sta sempre aggredendo un'altra persona, così che non va bene. Questo bisogna scemmellare un padrone. Perché la padrone di Italia? Lo so, con la bambina, sono tutte dicerie. Perché io ho un amico che il mio bambino ce l'ha adulto, è intelligente, eccetera, eccetera. Ma è stato di tutto. E anche quella che era lui è morta di vecchiaia. Non è vero nulla che gli si fa il cervello come gli si fa Mario. Io ce l'avevo un dombo con una femmina ed è morta di vecchiaia. Eri si chiamava, era Bocuveda. E di grande, di tanto era intelligente, ha sbagliato tutto questo che vi dicevo io. Ma siamo fuori. Ehi, Luca, tu che cane ha avuto? Ah, io ne ho avuto una abbastanza piccola, campato 13 anni. E quello è campato di più. E anche io ero molto piccolino. L'avevo trovato a Porto Torres, bianco bianco con la coda arricciata con il maiale. Però l'ho raccolto dalla strada, di cosa è stato sempre grato. Se si avvicinava la dire qualcuno faceva la fitta e picchiava, gli saltava addosso e non era aggressivo perché giocava con i bambini, tutto qua. Chi caschiava? Si difendono. Stanno dicendo ai padroni. Agiliti e tutte queste cose qua, perché ha la passione questa cosa, ne ha anche un altro di cane che non vuole visto, è un cavallo, un coso, un levriero. Guarda, io ne ho trovato una nella Pugna l'anno scorso, ma era piccolino, piccolino, piccolino, ci stava la carta che era il giubbotto. Sono arrivato lì all'ingresso di Fugne e ho visto questa scatola che si muoveva. Poi dopo mi sono fermato e dentro c'era un cucciolo ed era un bastardino, perché era un lissi ed era incrociato con un laschi, ma piccolino piccolino. Io l'ho pigliato, l'ho messo in tasca, tu mi puoi venire, guarda, l'hanno abbandonato in mezzo alla strada, magari si gira la scatola, se qualcuno ci passa sopra la mazza. L'ho messo in tasca e l'ho portato via. Sono arrivato in Capannone e l'ho lasciato in Capannone. Ma lo sai che a 8 mesi me l'hanno rubato, se ne sono portati via, ma se tu lo vedi, a 8 mesi era alto già 70 centimetri da terra. Era un cavallo. Sì, ma quindi lei ha levato per quello che si è accorto che era un atti incrociato con un cuore. Perché se no come fa a vederlo da piccolo così? Ma tu devi vederlo quando era piccolino, quanto era bello. E poi col passare del tempo è diventato un asinello, era un bel grande. E infatti mio compare mi diceva, Mario, regalo questo cane, che la gente ha paura di entrare perché vede il cane, e avanti, e chi gli dava il panino che gli avanzava col salame, e chi gli dava qualcosa, e quindi non c'era bisogno neanche di portarli a mangiare, perché me ne davano un po' con tutti quelli che lavoravano lì. E niente, un bel giorno mio compagno l'ha lasciato fuori, lui anziché a cucciarci lì vicino al cancello, chissà dove è andato, e niente, domani non l'abbiamo più trovato. Sì, ma sa che non l'ha già regalato a due? No, ma regalarlo non era, a parte che oramai conosceva tutti quanti, perché sono stato due mesi quasi che tutti quanti mi dicevano Marco, ma che fine ha fatto? Con le zampe bianche, però l'abbiamo chiamato calzini bianchi. la mia chiama. E l'altro è tutto nero. Ah, sono qui, lei vabbè, tanto per avere le bestie, dice, ma alcuni io sto facendo grandi. Ma alcuni dice? E allora, alcuni dice, deve essere qualche vicino lì, fai da un piano, sai, mio figlio ha messo a mangiare, metti un giro di mani, sono rimasti qua, e poi vabbè, già servo. Già, dammelo qualche troppo, se ne ritorni, se lo mangio, lo fanno fuori. Ma alcuni dice, gira per la casa così? No, negativo, alcuni dice, c'è la sua gabbia, e ogni tanto lo mette fuori dove c'è l'erba e basta. Già, molte lo tengono per la casa, ma già, che fiaga, mi sono si cambia spesso la taglia. Io non so, la parte ce la guarda mica mia, la coniglio. Mi mette la scarpa lì, e cambia la scarpa dove c'è la taglia, mi mette il cappello e poi mi scarpa. Molti fanno così, ma è dannoso, gli fa male perché si intuzzicano. Dove la paglia è cambiata spesso, anche perché la paglia non la mangiano. Ma c'è gente che li tiene anche liberi, ho visto tenendo liberi in casa l'altro, il furetto, ma chi? Ma se ne tolgono quel nervo, no? Per non cagare, per non fare la puzza, li tengo liberi per la casa, buoni di capo. E comunque si addomesticano come cani. Ma sono sempre furetti, non vengono a fare, e lo metti come il maialetto, adesso stavamo dal maialetto, a toccarsi la spazio e tenendo dito, ma non è il cane, non è il gatto, no? Senza il maialetto è ho il gatto. No, perché mio padre ha detto che una volta è passata alla roba, non credo che sia io, che ho messo un tipo con un maiale grosso a guinzare, dice che si diventa due volte, dice, ma sono solo io, che cosa? Ma è contento, cioè, adesso sta arrivando, ma è contento, era c'è il buco, queste cose, tu li vedevi, ma quei maglialetti, all'inizio se li portavano appresso in braccio, anche prima non si sentivano i conigli pubblici di mettersi in casa, i conigli erano animali da fattoria, basta, non erano animali da casa, dove si a un certo punto. Invece adesso se li mettono in casa, animali strani, tipo serpenti, c'è gente che si allora serpenti, c'è gente che si allora, come si chiamano, ma non mi viene, quell'animale, come cavolo si chiama, quello che ha la coda lunga, l'iguana. Esatto, la carina oggi è il mio vocabolario, e poi io non mi vedo le parole. E l'iguana, un amico mio ce l'aveva con la lunga, un giorno l'ha dato una frusta e l'ha fatto volare le stelle. Ma è un acchicciato. Acchicciato, non so quanto è diventato grande questo amico mio, l'ha dovuto dare tutto il mondo perché non ci sarà più la testa. Gatta lì, a me abbia voluto un gatto in un corpo di gola. Allora sì, la mia frusta dove è? La usa come frusta, come arma di difesa. E poi quando cambiano la pelle, gli schifo ti lasciava la pelle per le parti. È un animale che è brutto, non è viaggio, è brutto. Ci sono animali più simpatici. Io per dire ci avevo le cave peruviane, ma sono bellissime, quello con quello tutto intrecciato, i docelli di India, come si chiama. Allora aspetta, tu hai detto l'iguana. Ah, c'è uno che conosco io che c'ha il serpente, no? Vabbè, non è una cosa sana per il serpente, però per potergli da mangiare, tu che alleva lui i crocetti, no, che alleva i crocetti e i forcellini, quelli che stai dicendo tu. E poi quando per potergli quando sono piccolini che fanno, gliela da mangiare. Io so. È una cosa schifosissima, io ho visto appunto una volta da noi quei toccolini bianchi. Poi prego, ma la schizza, perché tra l'altro mi sono usciti gli occhi a rato, la schizza. Poi la cosa sembra ingoiato, lo tirava, no, non è che lo attaccava, lo tirava dentro. Così con la parte di distruzione che fa, che stoccano molto poco, mangiano una forca al mese, e quindi guarda per tenere. Non li mangia, non li mette gli ammuschi, non li mangia. Non li mangia, il pistone è quello, non li mangia che più buoni mostri. Io l'ho visto dentro la casa, adesso è una cosa come l'acquario, no, non fa le vette. Poi fuori nel giardino aveva una cascetta con i purtroppo i serpenti mangiano i polpi, tutto il resto, e i vigili quelli, ormai vivono molti, no? Se tu vivi molto, molti, ma non mangia. Sì, ma c'è le macchie per fare quelle, le ho aspettato moltissimo, non ho visto io. Guarda, adesso, guarda, non è che dobbiamo lasciare più di questa cosa, non so che va a fare, che lo porta soltanto tu. Poi va con un tipo di lignale intorno, non è un coniglio bello grande, che più grande che c'hai. Dice, quanto lo vuoi grande? Cioè, perché invece lo sto guardando un'altra parte. Mi dice, se non riesce a sapere che avrà fatto il tuffo della macchina, l'ha fatto vedere che tenia un bilitone, allucinato, questa cosa nella macchina come allarme. Domani è dopo. Adesso in questo momento non me ne accorgo perché non sento niente. Ieri notte ne farà dall'aria. No, perché sento le sale, se mi fa. Quello che non sento mai, proprio come... Penso tipo le tossatiche. No, una chiama cosa già mi sono sa. Già, mi sono preso da conto che sono andato in quel negozio. Ho preso il kit di telefono, dove proprio... del pH dell'acqua, no? E l'aria era tutto normale, ma i nitrati alti. E cosa vuol dire? Come lì bisogna... C'è qualcosa... Qualcuno in più a parte. il fatto che non lo voglia, veramente non c'è un nonno voglia nella sua vita. Non il nonno voglia, un figlio che è un fuso, un sacco, che ha veramente attenzione. E poi non è che dici fai a Ulvia, magari gli approfitti, fai qualche cosa, no, devi arrivare lì, mollarlo e ritornate. Vabbè, comunque è facile, via. Thank you. prima volta in mezzo a me. Ma non è un tipo che è venuto in officina, ma è che c'è stato un grosso incidente, proprio se stava esagerando, ma non è che non è stata persona, ma non so se qualcuno lo sa, c'è stato un grosso incidente ieri a Pantamona, niente, sai, Ma no, ma dove? A Pantamona dove? A qualche villaggio o cosa del genere? Ma lui mi ha detto, dice, dove c'è il cannetto, dove c'è parte verso la vicina la Budibuti, dove c'è il cannetto? Ma dove? Aliano? Dove stai dicendo? A parte di Aliano o dove? Mi ha parlato, presso verso il cannetto, cioè che è preso un po' contro il cannetto, quindi presumo che sia quello. Sì, ma se sta facendo tempo, c'è un cagno di scarica, voi non li sentite? Ma io non sento niente. Il cannetto è... Quando era tutto piccolo di 12 di giro. Adesso già niente sentito. No, io gli sono sceso per la Pantamona, però ci sono arrivato lì, capito? Magari era esagerata, magari era la chiusi che si stava mostrando qualche cosa, magari l'ha fatta più grande. Ma tu già non hai sentito scariche? No, magari no. Se lo vuoi. Ma c'è una che ti arrivano qualche tempo a fare, perché sento le scariche tutto. Soprattutto da quello parla Roberto. Comunque io stavo la televisione riguardo dei temporali, una cosa che non sapevo, dice che i fulmini, solo il 10% cadono a terra, su 100 fulmini e su 100 lampi solo 10 cadono a terra. Ma io penso, tu mi stai dicendo che ti sei staccato l'antenna, che i problemi ci sono, c'hai tutte le antenne vicino di quelle dei punti privati. C'hai sicuramente il fratello che ha l'antenna più grande, quindi prima io te lo dico per esperienza che è già capitato per un fulmine in campo, io però fucina un po' di 5 anni fa e mi ha trattato un salvo di mezzo dall'aereo, quelli che c'erano esterni. Tu vedi il suo filo in terra facendo scintille, era una cosa impressionante. Ma se, scusa, signor Presidente, ti c'è parlato con Gianni, ripeti Roberto. Adesso io e il fulmine abbiamo avuto brutte esperienze in officina un 25 anni fa, ne è caduto uno, c'erano ancora le linee esterne sopra il palazzo dove abitavo io, dove c'è l'officina, diciamo, è caduto un fulmine e ne ha tranciato la linea elettrica dell'energy, basta attenzione, il cavo in terra facendo scintille. Ma anche da dove, ma no, non so se c'è presente dove c'ho la, dove abitavo prima e dove c'ho l'officina, ci sono le due fumaiole, una da dove c'è Nigra e l'altra dove c'è Ardisson, quella che c'è Ardisson che tu guardi, c'aveva il fulmine e ce n'è un lato tagliato, era sceso un fulmine, lo stesso lì e ne aveva proprio tagliato un pezzo, ma il botto che aveva fatto io, sembrava che un terremoto sembrava proprio. A parte che qualche anno fa ne era caduto uno dove c'è la questura vicino a questa università, fai conto noi eravamo in officina, sembrava nella Valle d'Oromondo dal tocco, ed è sceso di lì in questa università. Sì, era una fucilata, mi ricordo ancora, era una fucilata, era una cosa che mi ha lasciato per un paio di secondi, mi bloccato. Prima di praticare su antenna e ce ne sono cose, anzi io cosa devo dire che qua sono isolato, se tu guardi io forse sono quello più alto di tutti sull'antenna. E appunto non ti fidare troppo, cioè non ce la fa il terzo volto perché sei il più soggetto alle scariche. Se sta col cavo un po' fuori, guarda, metto il negativo, io sono un mediatore, lo metto in posizione negativa, se cade entro dove ti faccia, ma si vela, si brucia la qualche apparato e basta. Alimentatori mi sa qui dal riguro. Ma io sarebbe dove le messe le antenne, i capi d'antenne. baracchi non ci arrivano. Vabbè, ma se cade un fulmine sempre c'è quel cavo dove fa scaricare. A parte che sono tutte collegate a terra, no, le antenne dire, prima cosa. Se c'è un palo di massa a terra, ragazzi, fatto dal sottoscritto, e scarica lì. Però io non li stacco sempre. Capito? Prima addirittura serve un commutatore, no? Che mandava in corso tutte le antenne. Quando io le mettevo in quel commutatore, le mandava in corso, circuito tutti. Però non era attaccata a nessun baracchino, capito? Era attaccata a cose di massa a terra e scaricavano lì. Pensavo come ce l'ho anch'io, c'è un commutatore, posizione 1, posizione 2, al centrale dovrei collegarlo alla terra. Però adesso prendo una massa con calma e me la collego alla terra della casa, che va bene lo stesso. Tu l'hai collegata alla famiglia, io la collego alla terra e vado a andare bene lo stesso. Ma se scende dove passa, fa sempre danno lì. Passa attraverso il cavo ma non trova niente attaccato nel cavo, capito? Là baracchino non l'ha trappa attaccata, io mi ristacco UBL vado baracchino, devi staccare proprio il cavo che va all'accordatore, a tutto mi stacchi un cavo di antenna brutti e un bel ragazzo in terra si carica a cargheggio in terra. Enrico, se fai tua casa entra a casa, è quello che io vorrei evitare, è quello che temo la salita. E allora ti compri il commutatore d'antenna, quante antenne hai tu? Adesso io ne ho una e basta. Sul commutatore giù dove commuto su due sugli apparecchi e basta. Apposta, io devo fare quello, però a me dovrei togliere i cavi, portarli fuori e buttarli fuori dalla proprio sulla facciata in maniera che non entrino. No, comprati un altro commutatore. E gli metti un PL dove va attaccata l'antenna, se attacchi un cavo al centrale solo, di massa a terra, un cavo medio grosso, di quelli gialli e verdi, e lo colleghi alla massa, e l'antenna la colleghi lì, capito là? Quando lo vedi che c'è tanto là, la prendi la vecchia su quel commutatore, in modo che il cavo, che senza il fumo, va a finire nel palo di massa a terra. E ho capito, sì, ho capito. Ebbene, questa sarebbe la cosa più giusta, hai ragione. Lo so, perché sono a temere, quello che dico. Già, lo faremo, perché effettivamente, adesso io sento scariche per esempio, ma sicuramente ho in zona mia che c'è qualche temporale o non lo sai, adesso fa la formata io lo sentivo per esempio. Ho già. E mi sento anche io le scariche. E là c'è temporale in zona, ecco perché. C'è temporale in zona, intanto mi sono dice lì, 105 minuti e poi vai passo in QRT che già arriva l'orario. Ne prendi già. Ah, ricordati di staccare le spine degli alimentatori pure, siccome sono collegati all'apparecchio, e te lo può bruciare lo stesso dall'alimentatore. Tu devi staccare proprio la spina in modo che non arrivi corrente all'alimentatore, perché anche se è spento basta come attesi tu vuoi minimi. Anche se ce l'ho potuto girare. E allora, le spine vogliono staccarte. E la cacchiamo, io adesso l'hai sentito, avevo mollato un'altra lì, ho fatto una mia scarica. Non è sentito adesso, deve essere stato in mano temporale sicuramente. E però se stacchiamo tutto, ho già. La spina dell'alimentatore stacca anche Salvatò, perché se a me cazzo non era collegato a niente, mi ha fatto passare pure una basiulina, non era collegato a niente, fatti il conto, perché intanto molti di voi in casa. Ma tu sei pericoloso, anche per la persona in realtà lì. Lo so, e infatti io mi stacco tutto adesso, tutto quanto è già attaccato, adesso devo staccare solo questa qui e sono a posto. Anche se ti puoi entrare. E te credo. Stacca tutto, tu staccano l'antenna e l'alimentazione dell'apparecchio, in modo che sei sicuro non ti rubriba. E sì, l'ho fatto, che ti ascari, però è andato un po' sentito, non è possibile che... Non è possibile che non senti. No, ho sentito te adesso quando hai parlato qualche... una cosa così, non so se erano quelle. Scarica la tostatica, insomma, là. Io vi saluto e ne stacco tutto per il sicuro, ci sentiamo alle prossime. Ok, ciao Natali, ciao, no, anch'io mi ho finito. Ma come fa a fare un lavoro? Lo sento giù, dove è? Questo è una scarica. Sì, quello è, vabbè, quello è. Ok, mettere i saluti, prendiamo per i saluti. ringrazi per Natalino. Ciao Natale, buonanotte, buon tutto, alle prossime, ciao ciao. Riprendi Gianni. Gianni le Rome. Ma che tu mani? Mandare il manco un po' la foto per chiudere. Sono un po' stanco adesso. Vi saluto tutti cordialmente. Non sono addormentato comunque mai. Sono sveglio abbastanza. Ho lasciato un po' di bianco, come si fa? Andate, Robert, riprendita. Comunque qualche scarica quando ti stai addormentando non ti va a rimanere, ma è Gianni. Oh, intanto devo dormire, non l'ho fatta per quello. Ed è giusto. Vabbè, non hai sentito cosa sta fanno Gianni, cioè ha tutto appena iniziato la scarica. Non so fatto caso, forse perché sono col portatile sente molto di meno questo, l'altro è più sensibile con lo grande. Magari la vecchia parte c'è sempre una e qui non c'è. Sì, la stava a sentire, io ho il Natalino, perché magari qua le prendiamo di più. Non so, è mai, ma non si sente niente. Interrompo anche io che per me è tardi, domani si riprende. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao.